quando lo toccava, più bella diventava, più bella diventava. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Negli occhi due stelline, per bocca un fiorellino, un fiore da baciare, un fiore da baciare. Dicevano le amiche, fa tutti innamorati. Cosa ha, cosa ha, cosa ha, cosa ha, che i giovanotti vanno matti da legare. Aveva un anellino che quando lo toccava, più bella diventava, più bella diventava. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Era brutta, una bimba tutta piena di difetti, ma una fata dalle stelle scese con la sua bacchetta. Le diede un anellino e lei si trasformò, carina ed elegante, di colpo diventò. Lo mise al dito, ancor più bella diventò. Aveva un anellino che quando lo toccava, più bella diventava, più bella diventava.